Mr. Kilowatt, alla ricerca dell'energia perduta. Buonasera da Maurizio Melis, benvenuti a Mr. Kilowatt. State pronti, cari ascoltatori, pronti intendo i blocchi di partenza, perché è in arrivo lo European Citizen Climate Cup, una sorta di competizione per famiglie europee che eleggerà niente meno il campione energetico dell'anno, ovvero la famiglia che riuscirà a dimostrare di aver fatto più efficienza energetica. Il partner dell'iniziativa europea in questione in Italia è Adiconsum, che è una ben nota associazione dei consumatori. In linea con noi c'è Pietro Giordano, segretario generale vicario di Adiconsum. Buonasera Giordano. Buonasera. Allora, diamo un primo dato tanto per cominciare. Il 60% delle famiglie europee, secondo l'Eurobarometro, ritiene di non sprecare energia, mentre le statistiche mostrano esattamente il contrario. Il cittadino europeo medio, secondo questi dati, spreca una quantità di energia che, se convertita, diciamo così, in emissioni di CO2, è quantificabile in circa mezza tonnellata. Quindi, insomma, il contributo che le famiglie possono dare anche con degli accorgimenti è notevole. Allora Giordano, io le chiedo, prima di spiegare come si partecipa, di fare qualche esempio di modalità per fare risparmio energetico che ovviamente valgano ai fini del concorso. Esempio più lampante è quello di abbassare il riscaldamento in casa. Basterebbe abbassare il riscaldamento di un grado centigrado che si può tagliare la bolletta del 10% e si può risparmiare tantissima energia. La cosa più importante è quello di cominciare ad isolare le proprie abitazioni. Troppo spesso il calore o il freddo si disperde perché non abbiamo un'abitazione isolata. Insomma, stiamo parlando proprio dei classici interventi di efficientamento energetico dell'abitazione. C'è anche però un cotè rifiuti, diciamo così. Sì, purtroppo non tutte le famiglie, per non dire poche famiglie, in Italia soprattutto, non operano la raccolta differenziata dei propri rifiuti. Ma insomma, forse non la operano perfettamente, perché un po' di famiglie che la fanno ci sono. Perfettamente, dai. Diciamo così. E quindi il riciclaggio dei rifiuti sarebbe una fonte energetica non secondaria se i cittadini e quindi i consumatori sempre di più riescono e fanno la raccolta differenziata con attenzione soprattutto, no? Perché per esempio una cosa che succede è che si butti, non so, il cartone della pizza non va con la carta, ecco, queste cose spesso non si sanno perché è sporco. Infatti, bisognerebbe raccogliere solo la carta pulita, per esempio, no? Oppure ad esempio le capsule dei caffè che sono in plastica, ad esempio, non vanno buttate nella plastica, ma vanno buttate nei rifiuti cumulativi. Ok, quindi però l'indifferenziata. Tra le cose, quindi non c'è informazione. Allora, adesso invece spieghiamo un po' come partecipare a questo concorso. Allora, come ci si iscrive? Prima di tutto, è un concorso europeo, quindi sono 10 nazioni in concorrenza. E quindi per l'Italia partecipano 2.500 famiglie. Se ne possono aggiungere altre? Sì, okay, possono aggiungere altre, anche perché la cosa bella è che ci sarà la squadra italiana che concorrerà, quindi tutte le famiglie concorreranno tutte insieme, come dire, confrontandosi con altre famiglie. Perché e noi c'è un premio anche per come Italia. Ecco, perché c'è anche un premio per i paesi, diciamo, più virtuosi. Vabbè, speriamo, va. Speriamo. Come ci si iscrive? Ci si iscrive uno accedendo al nostro sito, lì si troverà che adiconsum.it, lì si trovano tutti i riferimenti e ci sarà anche il sito europeo attraverso il quale è possibile iscriversi o telefonando al nostro numero verde che è 800 58 90 90, si può avere tutte le informazioni del caso. Ecco, però per partecipare poi che tipo di documentazione bisognerà esibire? Bisognerà esibire almeno 2 bollette del proprio consumo energetico, e questo è assolutamente necessario, più una serie di informazioni che variano da famiglia a famiglia, ma già le 2 bollette daranno l'indicazione dei consumi che all'interno della propria abitazione si realizzano. Ok, e queste 2 bollette sono 2 bollette a distanza di un anno per far vedere le differenze o in che senso? Sì, sono a distanza di 6 mesi uno dall'altro per poter fare un paragone almeno semestrale del proprio consumo energetico. Però poi si possono anche dare altre informazioni, no? Che vengono valutate, per esempio, certo, che interventi si sono fatti. Chiaramente tutte le virtuosità che una famiglia ha attuato all'interno della propria abitazione possono essere espresse e quindi diventano punteggio, tra virgolette, d'accordo, per poter vincere la gara. Senta, quasi sempre se nel momento in cui uno vuole riqualificare energeticamente casa sua non sa bene da dove partire. Di solito il problema iniziale è quello di identificare gli sprechi su cui intervenire. Voi però in questo potete dare una mano, vero? Sì, perché attraverso il nostro sito, che ripeto è adiconsumo.it, si può accedere a una diagnosi gratuita della propria bolletta energetica. Sì, cioè si può compilare, usare internet, sì, il vostro software per farsi un'autodiagnosi. Un'autodiagnosi. Ok, che sarà approssimativa. Poi si vuole approfondire e quindi avere la possibilità di un tecnico che faccia un intervento, è possibile a prezzi stracciati rispetto a quelli di mercato. Sempre rivolgendosi a voi, sì. Questa è un'iniziativa che state portando avanti da un po' di tempo, no? Sì, sì. D'accordo. Senta, cosa si vince? Si vince intanto un premio del valore di 2000 euro, non un premio in soldi, sì, ma potrebbe essere una caldaia ad esempio a risparmio energetico, e in più un viaggio spesato completamente a Bruxelles al momento in cui ci sarà la premiazione. Insomma, questo non si diventa ricchi partecipando a questo concorso, no, però infatti ci si toglie magari una soddisfazione se si vince. Vabbè, Forza Italia allora, anzi, Forza Italia. Non si può più dire, siamo in par condicio. Non si può dire. Buona serata.